Io con te mi sento in colpa, solo un po', ma per me è già abbastanza. Non riesco più a guardarti, ma perché no? Non è stato in questa stanza. Mi lasciavi sempre sola, Dio lo sa. Quante volte ho detto no. Tornare insieme poi, che senso ha? Ricominciare poi, che senso ha? Non potrei. Ho sentito il cuore in gola, ma però ero forse troppo avanti. Quando sei tornato in mente, io e lui eravamo già amanti. Per un taglio tutto il resto tu non sai. Mi è costato più che mai. Tornare insieme poi, che senso ha? Ricominciare poi, che senso ha? Sempre le stesse, no, no, e ora posso adesso, adesso, adesso non potrei.